signor, son io dal zelo del tuo onor, dalla mia feria dirti quel che mi ridir pavento. Favella pur, qual tema vorrà tenerti il labbro? Il dirti cose che ser ponno cagione il tuo dolore. Questo io non curo. Allora che al carattere eccelso che splende in me onta può darsi e scorno? Già che tu me il comandi, Cesare, io ti dispero che colei che tant'ami fabbra sarà nel precipizio tuo. Per quale ragion? Son giunte, scusa signor, son giunte al colmo le lascive sue forme agli occhi altrui. Roma ne sparla e tutti dicon Cesare cieco che segue una vil donna, un empio nostro. Che ascolto e che tu parli, empia forse colei perché troppa ama chi deve amare. Anzi, perché dimostra troppa amar chi non deve. E chi fia questi? Chi? Ridir non saprei. Che foto è pure quello stuol d'amatori a cui men spesso vezzi, sguardi e parole non dovute al suo onor comparte e dona. Dunque, che far de Gio perché rimanga del torto mio, dell'error suo ben chiaro? Da cauto in vigilar sulla presume. E ciò tu mi confondi, il mio riposo se dimmi già turbato più che l'onda di mare è perventerato.